Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Buonasera da Laura Bettini e da Christian Goldoni in assistenza, Roberta Frisani in regia, una nuova puntata di Effetto Notte. Cominciamo subito con il ricapitolare quelli che sono stati i principali temi della giornata. In primo piano ci sono sempre le tensioni internazionali in queste ore, questa volta più a est tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, con la preoccupazione della Cina dichiarata. La guerra può scoppiare in qualsiasi momento, dice Pechino, che ha tra l'altro deciso di sospendere i voli verso Pyongyang. E questo è sicuramente uno degli argomenti di giornata che tratteremo nel corso di questa puntata. Per venire in Italia invece ci sono stati i primi passi verso il reddito di inclusione, firmato il memorandum di intesa a Palazzo Chigi. In Italia intanto, ha fatto sapere l'Istat, ci sono 4 milioni e mezzo di poveri. Poi ci sono le indiscrezioni sulla manovra bis. Arriva la bastonata per chi non paga il biglietto in autobus con multe fino a 200 euro e aumenta anche il prelievo dello Stato sulle vincite. Quindi parliamo di gratte vinci, parliamo di slot machine, di tutto questo comparto. Migranti, Marine Le Pen contro il Papa, la carità sia individuale, dice, non si può chiedere di fare la carità agli stati. E tra l'altro, tra pochissimo, vediamo ora le immagini, inizierà la Via Crucis al Colosseo a Roma, che sarà guidata proprio da Papa Francesco. Movimento 5 Stelle, firme false a Palermo, Grillo espelle altri 3 parlamentari del Movimento, altro argomento che approfondiremo tra pochissimo. E poi ovviamente c'è lo sport, il Milan è cinese, abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle, così si è presentato il signor Lee, nuovo padrone della squadra, e domani ci sarà il derby. Pasqua, quasi 10 milioni di italiani sono già partiti o si stanno mettendo in viaggio, tanti hanno scelto l'Italia, ma noi abbiamo anche qualche indiscrezione su dove andranno all'estero. Ebbene, abbiamo saputo che tanti torneranno in Egitto nelle prossime settimane, quindi vuol dire forse che abbiamo superato la paura degli attentati, o forse che abbiamo imparato a conviverci, e questo non è bellissimo secondo da che punto di vista lo guardiamo, ma tant'è, questa è la situazione e adesso iniziamo. Allora, dicevamo, tensione in Asia, la Corea annuncia, siamo pronti alla guerra con gli Stati Uniti, la Cina sospende i voli con Pyongyang, facciamo il punto nel servizio. La Corea del Nord andrà in guerra se gli Stati Uniti lo sceglieranno, lo ha dichiarato alla Associated Press il viceministro degli esteri nordcoreano Ahn Sung-ryol, avvertendo che Pyongyang ha un potente deterrente nucleare. La politica di Trump è più aggressiva di quella di Obama, ha aggiunto il viceministro, sottolineando che è il presidente americano a creare guai, in risposta al tweet in cui Donald Trump aveva scritto che la Corea del Nord è in cerca di guai. Parole durissime contro gli USA sono arrivate poi da un portavoce del comando generale di Pyongyang, che ha parlato di controazioni che verranno prese senza pietà contro gli Stati Uniti e i loro vassalli. Intanto nessun commento dal Pentagono sulle indiscrezioni della NBC, secondo le quali gli USA sarebbero pronti a un attacco preventivo alla Corea del Nord nel caso di imminente test nucleare da parte di Pyongyang. La guerra potrebbe scoppiare in ogni momento, ammonisce il ministro degli esteri cinese Wang Yi, e non avrebbe vincitori. Pechino invita le parti al dialogo, assicurando il suo sostegno, e intanto sospende i voli a partire da lunedì della tratta Pechino-Pyongyang, dell'unica compagnia cinese collegata direttamente con la Corea del Nord. Invita alla calma anche il Cremlino, che si dice molto preoccupato per le crescenti tensioni, il tutto mentre il Giappone fa sapere di avere allo studio un piano per gestire un'eventuale crisi nella penisola coreana. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Afghanistan, la superbomba sganciata ieri da un C-130 americano sul distretto di Akin, nella provincia di Nangarhar, ha causato la morte di 82 militanti dell'ISIS. ISIS che però smentisce e dice che non c'è stata alcuna vittima. C'è un dettaglio che arriva proprio in questi minuti dal Washington Post ed è particolarmente interessante, cercheremo di approfondirlo, perché il Washington Post dice che questa grande bomba, la madre di tutte le bombe, è stata sganciata, sì, ma non è stato necessario, diciamo così, chiedere l'autorizzazione al presidente Donald Trump, che il comandante americano delle operazioni in Afghanistan aveva tutta l'autorità di lanciarla anche senza appunto l'approvazione di Trump, e questo forse sarebbe accaduto, dice il Washington Post. Ovviamente queste sono informazioni riservate, però appunto questioni da approfondire e non da poco, direi. Veniamo a questo punto in Italia. Palazzo Chigi, la firma del memorandum sul reddito di inclusione da parte del governo e dell'Alleanza contro la povertà, l'organismo che raggruppa sindacati e associazioni impegnate nel sociale. Inizia a prendere forma il reddito di inclusione. L'intesa siglata a Palazzo Chigi fissa alcuni dei criteri con i quali verrà erogato il nuovo strumento di sostegno destinato alle famiglie che si trovano in condizioni di povertà, soprattutto quelle con minori. In una prima fase riguarderà circa 2 milioni di persone. I decreti attuativi arriveranno entro fine mese, fa sapere il Premier Gentiloni. Naturalmente quello di oggi è un primo risultato, però penso che sia utile rivendicarlo a testa alta, perché in fondo è la prima volta che l'Italia si dota di uno strumento generale, universale, che vale su tutto il territorio nazionale. Il reddito di inclusione prevede un assegno non superiore ai 485 euro al mese e punta a facilitare il reinserimento sociale e lavorativo. Per questo, almeno per qualche mese, l'assegno verrà erogato anche se uno dei componenti della famiglia troverà un'occupazione. Positivo il giudizio della numero uno della CGIL Camusso, che parla di importante passo avanti, anche se servirebbero più risorse per finanziare il reddito di inclusione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La notizia è arrivata nello stesso giorno in cui l'Istat diffondeva i dati sulla povertà assoluta in Italia, che nel 2015 coinvolgeva il 6,1% delle famiglie residenti, quindi pari a 4.598.000 individui. Di questa sera, di poco fa, le indiscrezioni sulla manovra bis, quella chiesta dall'Unione Europea per riportare i conti pubblici all'interno dei parametri comunitari. Bastonata per chi non paga il biglietto in autobus, questo sarebbe previsto secondo l'ANSA. Ci sono multe all'interno di questa manovra bis che arriverebbero fino a 200 euro appunto per un biglietto non pagato. Raddoppia anche dal 6 al 12% il prelievo che lo Stato opererebbe, vediamo insomma come andranno le cose, sulle vincite superiori ai 500 euro, e aumenta anche il prelievo sulle vincite, sulle slot e le videolotteri. Ecco, come dicevamo, inizia in Mondovisione in questi minuti al Colosseo la Via Crucis, presieduta da Papa Francesco. Forse riusciamo a sentire qualcosa, chiedo alla regia. Incontro ai corpi e ai cuori sofferenti, spinto dall'urgenza di annunciare il regno. Ovviamente non sta parlando Papa questo Francesco, che è raccolto in preghiera in questo momento, è arrivato oggi, qualche minuto prima al Colosseo, e ovviamente poi noi seguiremo la oggi serata, cercando di farvi sentire i momenti in cui appunto Francesco si rivolgerà ai fedeli. Dalla Francia oggi, proprio contro Papa Francesco, se l'è presa la candidata alla presidenza Marine Le Pen, che ha detto di essere estremamente cattolica ma al tempo stesso arrabbiata con la Chiesa, in particolare per le parole del Papa sulla accoglienza dei migranti. Ha detto: la carità si fa individualmente, ma non si può chiedere agli stati di farla. Altro tema di giornata: sappiamo che l'accordo è maturato nella notte, quello sulla Alitalia, preaccordo tra azienda e sindacati. Per il via libera sarà determinante il referendum tra i lavoratori. In caso positivo, i soci procederanno al finanziamento del piano. Sentiamo. Un compromesso, quello raggiunto nella notte, che soddisfa tutte le parti coinvolte. Due punti chiave sui quali vi è stata la fine di una maratona notturna durata 18 ore, la convergenza di aziende e sindacati. Il numero degli esuberi a tempo indeterminato, che passa da 1338 a 980, la riduzione poi del taglio degli stipendi del personale di volo, rivista dal 33 all'8%. Positivo il giudizio del CDA di Alitalia, soddisfatto il presidente esecutivo Gubitosi. Non abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ma è stato un grosso passo avanti nel rispetto delle scadenze. Di lavoro importante parlano i sindacati, così Camusso CGIL. Bisogna provare a salvare un'azienda che così è sull'orlo della sua chiusura, quindi questo è lo sforzo che abbiamo fatto, sapendo bene che si chiedono dei sacrifici ai lavoratori e che questi sacrifici devono essere ricompensati da scelte vere. Ora la parola passa ai lavoratori. Mi auguro che il buonsenso prevalga, afferma Barba Gallo della UIL. Mi auguro che il punto di incontro sia confermato dai lavoratori e rivendico l'impegno del governo, che è stato in questi mesi incessante. Il commento del presidente del Consiglio Gentiloni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il ministro dello sviluppo economico Calenda, intervistato proprio da Radio 24, ha avvertito che se il referendum fosse bocciato tutti i costi finirebbero sullo Stato e supererebbero il miliardo. Tutt'altro tema, parliamo ora di eutanasia. Spero tanto che l'Italia diventi un paese più civile, facendo finalmente una legge che permetta di porre fine a sofferenze enormi, a casa propria, vicino ai propri cari, senza dover andare all'estero. Così ha scritto nella sua lettera d'addio Davide Trentini, 52enne, malato di sclerosi multipla dal 1993, morto ieri con l'eutanasia in una clinica svizzera, dove l'ha accompagnato la copresidente dell'associazione Luca Coscioni, Mina Welby, che oggi con Marco Cappato ha rilasciato ai carabinieri dichiarazioni spontanee per autodenunciarsi. Poi c'è la svolta cinese del Milan, con un tradizionale Forza Milan, un altrettanto scontato abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle. Si è presentato il signor Lee, nuovo padrone della squadra, ma di questo parliamo abbondantemente più avanti nel corso di questa puntata. Vi ricordo ovviamente l'altro tema grande di cui parleremo è quello della Pasqua. Però adesso andiamo a concludere il viaggio di Radio 24 sulla sicurezza in Italia. Sapete, abbiamo fatto molte puntate, quella di oggi è l'ultima. Il tema che affrontiamo ora è l'estensione della difesa alle persone che per proteggere i propri cari aggrediscono chi viola la proprietà privata per furti o rapine. Processi più veloci e spese legali rimborsate dallo Stato per chi si difende contro ladri e rapinatori. La questione della legittima difesa, in particolare l'estensione della difesa alle vittime di aggressioni, sarà in aula tra pochi giorni. In pratica si specificano meglio le circostanze che evitano di mettere sullo stesso piano processuale ladro e cittadino. Il testo che arriva in aula è quello del responsabile giustizia del PD, David Ermini, e si propone di modificare l'articolo 59 del codice penale sulle circostanze del fatto. Cioè, noi diciamo che la difesa è sempre legittima quando il soggetto è tratto in errore dal comportamento di chi lo aggredisce, e a quel punto lui si trova in uno stato di grave turbamento psichico. Questa proposta qui è molto estensiva, tant'è che qualcuno ce l'ha anche criticata perché diciamo apre troppo le porte all'utilizzo della legittima difesa. Queste cose qui sono molto ampie. Qual è la differenza sostanziale? È che noi diciamo che comunque l'ultima parola ce la dovrà mettere il magistrato. Aiutiamo le persone attraverso la possibilità del rimborso delle spese, vediamo se possiamo dare una corsia preferenziale a questi procedimenti, però è ovvio che in un paese normale l'ultima parola spetta sempre al magistrato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A questo punto è il momento della viabilità, proseguiamo tra pochissimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Ancora una buona serata da Laura Bettini. Dunque, le principali notizie le abbiamo ripercorse nella prima parte di Effetto Notte. Abbiamo detto delle tensioni internazionali, in particolare la crisi tra Corea del Nord e Stati Uniti, con la preoccupazione della Cina che dice la guerra può scoppiare in qualsiasi momento. Abbiamo detto delle novità in arrivo per la manovra bis. Secondo le indiscrezioni dell'ANSA arriva la bastonata per chi non paga il biglietto in autobus, ma aumenta anche il prelievo dello Stato sulle vincite. La Via Crucis con Papa Francesco appena iniziata a Roma, abbiamo detto del Milan che è cinese, dei 10 milioni di italiani che sono già partiti o si stanno mettendo in viaggio. Ma andiamo adesso ad approfondire un'altra delle notizie di giornata, abbiamo sentito prima il servizio. Il reddito di inclusione. Allora, cominciamo ad aprire questo argomento con le parole del Premier Gentiloni. Noi sappiamo che la crisi che abbiamo attraversato una decina d'anni fa, la crisi più grave dal dopoguerra, ci ha lasciato un incremento dei numeri della povertà molto rilevante, 1,5 milioni di famiglie povere. E questo per chi governa, per tutti noi, deve essere un assillo costante. Insomma, questa è un po' la premessa del Premier che ha firmato a Palazzo Chigi il memorandum d'intesa per il REI, appunto, reddito di inclusione, sottolineando che si tratta di un impegno per la dignità e la libertà dal bisogno per 2 milioni di persone. Dicevamo prima che, tra l'altro, oggi gli ultimi dati dell'Istat hanno indicato che la povertà assoluta in Italia nel 2015 coinvolgeva 4,6 milioni di persone, ovvero il 6,1% delle famiglie. Allora, abbiamo in collegamento con noi Davide Davide Colombo del Sole 24 Ore. Davide, buonasera. Buonasera a voi. Allora, spieghiamo un po' di che si tratta. Tu oggi hai dovuto metterci la testa, insomma, che cos'è questo REI, che cosa propone? Ma dunque, questo REI è un passo in avanti rispetto a una sperimentazione che è stata avviata alcuni anni fa e che ha dato vita alla prima misura di sostegno, si chiamava SIA, una sostegno di inclusione, e che è arrivato in pagamento nei primi mesi di quest'anno a circa 70.000 nuclei familiari. Ora parte finalmente, se posso dire con grande ritardo, perché siamo l'unico paese europeo, a parte la Grecia, che ancora deve far partire un programma nazionale. Che non è certo un gran record. Ecco. Non è un gran record, è un programma nazionale, con una struttura universalistica, cioè non categoriale, e che ha l'obiettivo appunto di intercettare quella componente di popolazione che versa in condizioni estremamente povere, di povertà assoluta, cioè che non sono in grado questi nuclei di dotarsi dei beni minimi per una vita dignitosa, come si dice, ma poi ci sarebbe molto più da dire. Come dicevi tu prima, stiamo parlando di circa del 7, poco meno dell'8% della popolazione residente, sono i dati del 2015, gli ultimi dati Istat. È purtroppo una fascia della nostra società che è cresciuta molto, e dal 2005 al 2015 è cresciuta notevolmente, e che vorrebbe cambiare un po' la prospettiva, no? Non è solo una questione di assistenza, ma di economica, ma cercare di trovare il modo di dare reinserimento sociale e lavorativo, ecco, a coloro che saranno beneficiati. Sì, diciamo che il programma, a dirla è molto semplice, si tratta di un trasferimento monetario condizionale, cioè sottoposto a una prova dei mezzi, tu devi stare appunto sotto quella soglia o lontano, un po' lontano dalla soglia, da una soglia di reddito minima. C'è un doppio misuratore, l'ISEE e l'ISR, che servono per misurare il tuo reddito familiare, naturalmente variano a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, ma la condizionalità vera per entrare in questo programma di aiuto, di inclusione sociale, questo reddito di inclusione, è quello poi di non sottrarsi a un programma di aiuto finalizzato da prima a dei minimi sociali, tipo la cura dei figli, fare sì che i figli vadano a scuola, che non perdano un programma scolastico o le cure sanitarie minime, ma anche non sottrarsi a delle offerte di inserimento lavorativo laddove se fossero disponibili, che offrono gli enti locali. È facile a dirlo, è difficile a farlo. Questa politica pubblica è una delle più difficili da attuare. C'è un problema, come si dice in gergo di take up, cioè di bisogna riuscire a raggiungere i beneficiari, questa fascia di popolazione in difficoltà, far arrivare a loro questo sussidio e nello stesso tempo accompagnarli in questi percorsi che sui territori dovrebbero essere attivati. Voi capite la complicazione. Sì, tra l'altro poi c'è anche un'altra complicazione, che è quella di qualunque progetto, che è quella di passare dal progetto alla fase operativa, cioè in Italia tante volte c'è anche questo rallentamento. Che da questo punto di vista non partiamo da zero, partiamo appunto da una sperimentazione che è durata oramai possiamo dire diversi anni, perché si era partiti con una attivazione di un sostegno di inclusione nelle prime 12 città campione, con un finanziamento iniziale di poco più di 200 milioni, poi appunto con il passare del tempo è stato adottato l'ISEE, è stato sperimentato l'ISEE, è stato contestato l'ISEE, perché ricordiamoci ci sono state anche delle vicissitudini davanti ai tribunali amministrativi. Che è stato un percorso un po' all'italiana, cioè un po' faticoso. Il nostro è un paese che fa molta fatica ad adottare delle politiche pubbliche, come per esempio le politiche di attivazione nel campo lavoristico. Noi siamo molto bravi a fare gli ammortizzatori sociali, per esempio, ma non siamo molto capaci di fare delle politiche pubbliche di attivazione o di riattivazione delle capacità lavorative delle persone che vengono escluse dal mercato del lavoro. Questa, tra le politiche pubbliche assistenziali, è forse la più complessa, perché include diversi livelli di governo, include molti attori. L'accordo che è stato siglato oggi con l'Alleanza per la Povertà, che è una sigla dietro la quale c'è un arcipelago di 37 o 40 soggetti diversi, dalle cooperative, i sindacati, il terzo settore. Ecco, diciamo che queste qui sono delle politiche pubbliche che camminano non solamente se ci sono abbastanza soldi, ma soprattutto se c'è un network che le tiene in piedi e che le fa camminare, le sperimenta sul territorio, capisce dove ci sono gli errori, come correggerli in corso d'opera con un buon monitoraggio, e soprattutto fa di tutto per renderle poi strutturali, cioè far capire che un livello di cittadinanza in più è stato adottato e che non lo si molla più. Ecco. Grazie. Davide Colombo, grazie per essere stato con noi, grazie, collega del Sole 24 Ore. Buona serata, buona Pasqua, ne approfittiamo per farti gli auguri. A proposito di Alleanza contro la Povertà, adesso abbiamo in collegamento Cristiano Gori, che è docente di politica sociale all'Università di Trento ed è stato ideatore e coordinatore scientifico dell'Alleanza contro la Povertà. Buonasera a lei. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, Davide ha cercato di tracciarci un po' il quadro. Tra l'altro oggi Gentiloni, il Premier, ha ricordato tra l'altro che è stato anche proprio alla vostra collaborazione esigente, ecco, rispetto a questo tema, che le cose sono andate avanti, cioè perché ci avete messo proprio anima e cuore, direi. Che punto considerate di essere arrivati, no? Come l'avete vissuto questa giornata di oggi? Allora, noi l'abbiamo vissuta in maniera anche emozionante, perché direi anche Gentiloni, perché era un po' carico, cosa che non gli capita spessissimo. Ma guarda, ci sono due motivi. Uno è le politiche decenti contro la povertà in Italia andavano fatte 20 anni fa, e ci sono generazioni di operatori, studiosi, esperti che le hanno chieste senza averle ottenute. Cominciamo adesso, in questo senso noi raccogliamo anche il lavoro di altri. Quindi questa prima misura, se lei la guarda rispetto alla storia d'Italia, è un notevolissimo passo in avanti. Se lei la guarda rispetto ai bisogni della popolazione italiana, non può che essere un punto di partenza. Certo, certo. Sia anche perché, rispetto all'Europa, no? Come dicevamo prima. Appunto, appunto. Quindi è un punto di partenza, sia perché comunque siamo a meno della metà dei poveri, tra 1,5 milioni e 2 milioni, e i poveri saranno quelli raggiunti dalla misura, mentre i poveri complessivi sono 4,5 milioni, sia perché costruire questi interventi di inserimento sociale nei territori sarà molto complicato, quindi è naturale aspettarsi che i primi mesi, i primi anni ci saranno significative difficoltà, ma l'importante è quello di stare in un'ottica di costruzione che permetta via via di migliorare. È anche quella, appunto, che si diceva prima, di avere dietro una rete come la vostra che, no, preme e che è solida. Sì, devo dire che noi, come dire, per correttezza, noi abbiamo premuto, anche il Movimento 5 Stelle ha molto premuto, questo va riconosciuto. L'idea dell'Alleanza contro la Povertà è che sui contenuti, cosa fare concretamente per i più deboli, ci si confronta con tutti. Noi quindi ci abbiamo sempre lavorato col governo, con i parlamentari, con le opposizioni, quindi oggi viene riconosciuto il nostro ruolo, ma è corretto ricordare che la prima forza politica a portare questo tema sull'agenda è stato il Movimento 5 Stelle. Bene, ne siamo felici, insomma, no? Perché no, poi siete. No, è corretto, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, ci mancherebbe. Ecco. Sì, prego. No, la cosa che volevo dire, l'aspetto positivo di questa esperienza è che appunto tutte le realtà associative, comuni, regioni, sindacati si mettono insieme e provano insieme a ragionare concretamente su cosa fare e poi si confrontano col governo. Credo che fosse per questo che oggi c'era un po' di emozione, perché in un momento in cui la politica sembra che sia tutto cercare di ognuno di distruggere le idee dell'altro, su questo percorso c'è stato un clima di lavoro fattivo orientato a costruire risposte concrete per le persone più deboli. Grazie, io la ringrazio, vi auguro buon lavoro con le forze politiche che vi hanno sostenuto, diceva in particolare il Movimento 5 Stelle. Cristiano Gori è docente di politica sociale alla Università di Trento, spero avremo occasione di sentirci per ulteriori step, no? Non ci ha sostenuto, noi, cioè, anche il Partito Democratico, certo. Riconoscevo il ruolo del 5 Stelle, nel senso... Va bene, non perdiamoci comunque, non roviniamo la festa della giornata che è buona, diciamo, no? Assolutamente. Va bene, grazie ancora. Buona serata, adesso noi abbiamo una piccola pausa, ascoltiamo le previsioni del tempo e poi andiamo avanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini, da Cristian Goldoni in assistenza, Roberta Frisani in regia. Le notizie principali del giorno stiamo cominciando ad approfondirle, ma ve le ricordiamo. In primo piano ci sono sempre le tensioni internazionali, parliamo in particolare di quelle tra Corea del Nord e Stati Uniti, con la preoccupazione della Cina che dice la guerra può scoppiare in qualsiasi momento e addirittura sospende i voli verso Pyongyang. Di questo parliamo tra pochissimo. Poco fa invece abbiamo parlato di reddito di inclusione, sono stati fatti i primi passi, firmato il memorandum di intesa Palazzo Chigi e in Italia ci sono 4 milioni e mezzo di poveri, dice l'Istat, riferendo i dati del 2015. Ci sono le indiscrezioni sulla manovra bis, arriva la bastonata per chi non paga il biglietto in autobus fino a 200 euro e aumenta anche il prelievo dello Stato sulle vincite. A Roma vediamo proseguire la Via Crucis del Papa, al centro delle riflessioni del pontefice. Quest'anno ci saranno sicuramente le guerre, i migranti e i bambini violati. Tra l'altro contro il Papa si è scagliata oggi Marine Le Pen, la carità sia individuale, dice, non si può chiedere agli stati di fare carità, anche se si è detta profondamente cattolica. E poi torniamo a parlare di Cina e apriamo la pagina del momento, di ciò di cui ci occuperemo tra pochissimo, ovvero parliamo di sport, parliamo di Milan e parliamo di Cina, perché il Milan è ufficialmente cinese ormai. Abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle, si è presentato così il signor Li, nuovo padrone della squadra. Domani tra l'altro c'è il derby, quindi molte novità insieme in casa Milan. In collegamento con noi c'è Giovanni Capuano. Buonasera Giovanni. Eccomi Laura, buonasera. Tu sei stato questa mattina a questa conferenza stampa, no? Sì, sì, conferenza stampa in cui abbiamo sentito le prime parole di Yongo Li, poche parole, però. Pochi cinesi, tra l'altro ho letto cinese. Tre cinesi soli. Sì, c'erano davvero pochissimi ospiti cinesi, ma devo dirti che è stato un appuntamento sobrio, per chi insomma ha seguito ad esempio 10 mesi fa la presentazione di Suning, che tra l'altro fu doppia, la prima a Nanchino e la seconda a Milano. Questa di Yongo Li, nuovo padrone del Milan, è stata certamente una cosa molto più misurata e di low profile, credo anche per una scelta, insomma, perché anche il messaggio che è stato lanciato è stato quello del tentativo di rifare grande il Milan, ma andando per piccoli passi. Queste proprio sono state le parole usate da Yongo Li, e del resto insomma i tifosi del Milan erano molto curiosi di vederli in faccia, di sentire, di capire quali possono essere i progetti. Tifosi del Milan prostrati da una trattativa durata 2 anni, con milioni di rinvii, di colpi di scena, di cordate che si scioglievano, e quindi oltre alla curiosità c'è anche lo scetticismo, che credo non sia ancora passato, leggendo anche i tanti messaggi insomma che arrivano e quello che stanno scrivendo in questo momento i tifosi del Milan, che oggi hanno ascoltato, domani vedranno il risultato sul campo, anche se poi in realtà il nuovo Milan comincia a lavorare oggi e gli effetti si vedranno non certo domani. Però certo sono rimasti un po' così, non è stata quella gran presentazione come fu, no, a suo tempo quando con Berlusconi, tutta un'altra vita, completamente diverso, molte più incognite in questa vicenda. Sì, il paragone è ingeneroso. 31 anni fa Berlusconi si presentò con gli elicotteri all'Arena di Milano, con la vision di rendere il Milan la squadra più forte del mondo. Tutti lo presero per pazzo, ma questo lo raccontano anche i testimoni dell'epoca, i giocatori di quel Milan, Billy Costacurta, Franco Baresi. Invece aveva ragione Silvio Berlusconi, il Milan per 25 anni è stato il club più vincente. Poi ci sono arrivati gli ultimi 5, Berlusconi e Fininvest hanno smesso di investire, e oggi il Milan che viene consegnato ai cinesi non è un Milan dominante, dominante del mondo, è un brand importante, ma è un club che perde 80-90 milioni a stagione ed è una squadra che va rilanciata completamente. Oggi la scena, a parte Yongon Lee con le sue parole cinesi, se l'è presa tutta Marco Fassone, che di questo Milan è il capo operativo, è il capo azienda, è il nuovo amministratore delegato, è l'uomo che ha raccolto un'altra eredità pesantissima, cioè quella di Adriano Galliani, che per 30 anni è stato il dirigente più importante del calcio italiano. Fassone ha provato a mettere qualche paletto, ha detto ad esempio che l'obiettivo è rientrare in Champions League, il che significa l'anno prossimo arrivare nelle prime quattro posizioni, perché sono quelle che portano con la riforma alla Champions League. Ha provato a rassicurare un po' sulle tante voci sui debiti, perché questa è un'operazione alla fine che Yongon Lee ha fatto a debito, caricandosi di debito, dando il suo patrimonio come garanzia, caricando in parte anche il Milan dei debiti. Diciamo, c'è stata anche una parte di spiegazione tecnica che è stata a mio parere assolutamente opportuna e necessaria, perché in questi mesi la scelta è stata quella del silenzio e della poca trasparenza. Da qui in poi, ha detto Fassone, e io non ho motivo per non crederlo, si entra in una nuova era, non solo quella operativa ma anche quella in cui questa nuova società cercherà in qualche modo di aprirsi e di spiegare quelle che sono le sue strategie ai propri tifosi, che poi sono milioni di persone che legittimamente si aspettano di rivedere il Milan là dove il Milan deve stare, quindi a lottare per lo scudetto, a lottare per la Champions League, insomma essere una società importante, perché senza il Milan, senza l'Inter, senza la Juventus, ma questo è un discorso generale, il calcio italiano ci perde tutto. Proprio come sistema. Sì. Giovanni, ti chiedo di rispondere solo velocissimo, una curiosità così a me da ignorante del calcio, ma Galliani che cosa farà? Galliani non resta sicuramente al parco. Non so, è pari come Berlusconi, no? Uno pensa al Milan, pensa a Berlusconi, Galliani. Guarda, Galliani io credo andrà quasi certamente a fare il presidente di Lega Calcio, perché Lega Calcio c'è una situazione molto complessa, in questo momento si rischia il commissariamento, ma la verità è che da qui a due settimane ci potrebbe essere Adriano Galliani presidente. Lo voglio nei grandi club. Oggi Fassone ha detto che lo vuole anche il Milan, quindi il Milan voterà Galliani, questo può far sorridere, ma non era scontato. Certo, va bene, grazie a Giovanni Capuano. Continuiamo a parlare di Cina su tutt'altro fronte, però, perché la Cina è protagonista in queste ore sul fronte geopolitico. Come dicevamo, qui parliamo di Corea del Nord, delle schermaglie con gli Stati Uniti. Presidente Trump, ovviamente sappiamo che tipo di persona è, interventista, abbiamo già visto quello che è successo in Siria, abbiamo sentito della bomba, della madre di tutte le bombe in Afghanistan. Insomma, Trump chiede alla Cina di limitarli, quelli della Corea del Nord, altrimenti ci penserà lui. E però la Corea del Nord non ci sta, insomma, a farsi zittire, sappiamo tutti come hanno risposto, siamo pronti alla guerra quando volete, tanto più che domani la Corea del Nord festeggia il giorno del sole in onore del compleanno del fondatore dello Stato, il così soprannominato presidente eterno Kim Il-sung, che è il nonno dell'attuale leader Kim Jong-un. Uno scenario, diciamo, quasi perfetto per colpi di testa, almeno per noi profani. Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, a lei che gliene pare? Buonasera. Buonasera, ma dobbiamo partire da un punto innanzitutto, che in questi anni comunque di cattiva strategia per il contenimento della Corea, di pazienza strategica, come la definiva Obama, il risultato che si è portato a casa è stato che la Corea si è rinforzata, ha missili migliori, ha più lunga gittata, ha più testate, ha testate più potenti. Quindi quando iniziamo a guardare cosa sta facendo per Trump, dobbiamo partire dall'analisi di un fallimento delle amministrazioni precedenti. Non capiamo il senso. Dall'altra parte c'è un fatto evidente: la Cina è l'unico paese che ha una leva sulla Corea e quindi va spinta nella direzione di poter far capire, appunto, come sta facendo Trump, che o la Cina interviene o in qualche altro modo si farà. Quindi insomma, Trump la vuole far uscire da quella sua posizione che è sempre non interferisco con le politiche degli non altri. Non interferisco, ma contemporaneamente perché mi fa comodo, perché una Corea del Nord cane pazzo, ma fino a un certo punto è una cosa che i cinesi fa comodo. Ha fatto capire ai cinesi che il prezzo che pagano per questo è più americani nella regione, più presenza americana, militare, più legami tra gli Stati Uniti, il Giappone e gli altri paesi intorno alla Cina. Questo i cinesi non lo vogliono e devono farsi un calcolo strategico. Preferiscono giocare la carta del cane coreano o preferiscono avere meno presenza americana nell'area, questa è la realtà dei fatti. Quindi si cambiano i termini dell'equazione per vedere se il calcolo strategico di Pechino può cambiare. Però avendo noi a Pyongyang una persona, diciamo, che è altrettanto frizzante come Donald Trump, non c'è un rischio implicito in questo voler forzare le cose? La politica internazionale è sempre ricca di rischi, ma a fronte di questo rischio c'è la certezza del fallimento. Perché, ripeto, l'analisi del punto da cui veniamo è un punto di insuccesso totale nel contenimento dei neocoreani, per cui bisogna cambiare strategia. È una strategia che comporta dei rischi, non c'è dubbio. Bisogna fare molta attenzione per lasciare a tutti gli attori in gioco la possibilità di poter trovare una via d'uscita in cui salvino la faccia in qualche modo. E in siamo alle scremaglie iniziali. Quindi grande frizzellazzi, come si direbbe, e intanto le diplomazie stanno trattando. I cinesi da un lato invocano il principio di non ingerenza e dall'altro però hanno sospeso gli acquisti di carbone, hanno sospeso le forniture di petrolio, per cui insomma adesso sospendono i voli, coreani, abbiamo letto. Esatto, la mano dei coreani, segnali chiari che non vogliono rogne. Beh, speriamo che non gli scappi il dito, insomma, però, in tutto questo. Speriamo che quello che è sempre in agguato nelle crisi internazionali, che è la misperception, l'incomprensione delle mosse altrui o di cosa per gli altri è indigeribile, non venga sminato. I cinesi stanno molto atteggiandosi e comportandosi come quelli esperti. Vediamo cosa riescono a portare a casa anche i cinesi, perché in questo momento i cinesi stanno vendendo la loro posizione come l'adulto nella stanza, per così dire, no? Ok, vediamo l'adulto nella stanza cosa porta a casa. Va bene, allora ne parliamo lunedì, dopo la festa del giorno del sole, quindi quando forse anche le dimostrazioni di forza e dell'una e dell'altra parte saranno finite, perché avremo celebrato tutti quanti il presidente eterno Kim Il-sung, che è il nonno, come dicevo, dell'attuale leader Kim Jong-un, un personaggio sul quale troverete molta aneddotica se avrete voglia di andarla a leggere. Vittorio Emanuele Parsi, grazie per essere stato con noi, buona serata, buona Pasqua e a risentirci alla prossima occasione. Allora noi abbiamo la viabilità. E come dicevo, ci saranno ovviamente appuntamenti con il traffico al quarto d'ora e 45esimo minuto, non solo questa sera, ma soprattutto nella giornata di domani, quando al mattino potrebbe ripresentarsi qualche coda, qualche difficoltà, perché in fondo questo venerdì per molti era ancora un giorno lavorativo, quindi non tutti saranno partiti oggi, magari qualcuno ha rimandato a domani mattina. Vediamo un po' insieme di ripercorrere per l'ultima volta in questa serata di Effetto Notte quelli che sono i titoli, quindi gli argomenti principali della serata. Abbiamo detto delle tensioni internazionali con le prove di forza tra Corea del Nord e Stati Uniti e la Cina, che si dice molto preoccupata, ci diceva il professor Parsi, però è anche un braccio di ferro, insomma è voler costringere la Cina a entrare nell'arena, cosa che non ha mai voluto fare, e fare da mediatore con la Corea del Nord. E la Cina qualcosa effettivamente sta facendo, perché ha sospeso già i voli verso Pyongyang, ci sono alcuni rifornimenti che sono a rischio, perché la Corea del Nord dipende molto dalla Cina per la sua vita quotidiana. Abbiamo detto poi anche del reddito di inclusione in questa puntata di Effetto Notte. I primi passi sono stati mossi, è stato firmato il memorandum di intesa. In Italia ci sono 4 milioni e mezzo di poveri, dice l'Istat, quindi a maggior ragione questa è una misura importante. E ci dicevano appunto i nostri ospiti, arriviamo ben ultimi, solo la Grecia in Europa non ha misure di questo tipo per il reinserimento al lavoro e il sostegno alle famiglie in difficoltà, alle famiglie e ai singoli. Manovra bis, arriverebbe la bastonata per chi non paga il biglietto in autobus, aumenta il prelievo dello Stato sulle vincite. E poi abbiamo la Via Crucis, sentiamo qualche passaggio in corso al Colosseo di Roma. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via Crucis, che è diretta ovviamente dal Papa Francesco, che in questa occasione ha nel cuore e pregherà principalmente, sappiamo, per i migranti, per i bambini e ovviamente per la fine delle guerre. Marine Le Pen si è espressa duramente contro il Papa a proposito dei migranti. La carità, ha detto, sia individuale, non si può chiedere agli stati di fare la carità. Io sono profondamente cattolica, ha detto, ma su questo punto non posso condividere le indicazioni del Papa. Poi abbiamo parlato anche di firme false a Palermo. Grillo espelle altri 3 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Il Milan è cinese, abbiamo approfondito anche questa parte e le sorti di Galliani. Abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle, così si è presentato oggi il signor Lee, che è il nuovo padrone della squadra, e domani il derby, ovviamente Milan-Inter. E poi è Pasqua, abbiamo sentito la viabilità, 10 milioni di italiani sono già partiti o si stanno mettendo in viaggio. E allora proprio di questo vogliamo parlare, parliamo di vacanze, di italiani che vanno in vacanza. Nardo Filippetti è il presidente di Astoi, che è l'associazione che riunisce i tour operator. Allora Filippetti è in collegamento con noi e le chiediamo come vanno le cose per la Pasqua. Abbiamo detto che ci sono 10 milioni di persone in giro, ci sono adesso, ma poi arriva il 25 aprile, poi arriva il 1° maggio, insomma come stanno andando le cose per voi? Oserei dire abbastanza buone. Non sono di facile entusiasmo, però mi sembra che anche gli ultimi dati che vediamo e quanta gente si è mossa durante questo weekend pasquale induce a pensare che ci sia una buona stagione. Che è iniziata con circa 10 milioni di persone in giro, no? Queste sono le stime al momento. Sì, adesso onestamente mi sembra che ogni anno si raggiungano queste cifre, forse quest'anno un pochino di più. Probabilmente sarà stato dettato anche da una primavera anticipata e quindi ha permesso che la gente pianificasse e programmasse con più serenità. Poi abbiamo dei dati estremamente positivi per quello che concerne l'estate, addirittura con un buon risveglio del Mar Rosso che nemmeno noi avevamo pensato, tour operator, e che quindi ci ritroviamo oggi con un Sharm e un Massalam in forte crescita, anche per tutta l'estate, nonostante gli ultimi episodi che si sono verificati. Che avrebbero potuto spaventare, senz'altro. Esatto, invece in tante altre occasioni gestivamo un sacco di telefonate, o meglio tante telefonate, che erano preoccupate e volevano disdire. Questa volta invece semplicemente alcune telefonate di informazione e devo dire solo 2 disdette, che hanno lasciato anche noi molto attoniti. Vuol dire che probabilmente la gente comincia, purtroppo, fortunatamente, a convivere e comunque vuole vivere piuttosto che non stare attanagliati in casa o nel proprio territorio, perché oggi non c'è più, diciamo, una meta sicura e c'è forse un ritorno molto forte verso i tour operator, i quali garantiscono la vacanza e sono gli unici attori insieme alle agenzie di viaggi nella filiera del turismo che si prendono la responsabilità di quello che dicono. Dunque, per quel che riguarda le scelte, adesso ci ha nominato l'Egitto, in generale le scelte vanno più verso l'estero o verso l'Italia? Perché anche questo è un dato interessante, anche considerando quelle situazioni internazionali che lei nominava prima. Sicuramente anche l'Italia quest'anno, come già anche l'anno scorso, ma come sempre è stato, il 70% delle presenze italiane, non dimentichiamo che sono fatte dagli italiani, il 70% delle prenotazioni alberghiere italiane. E poi c'è una forte domanda sulla Spagna e sulla Grecia, che sono già quasi complete, anzi oserei dire che chi non ha prenotato a tempo debito, esempio i tour operator, che hanno i loro allotment oramai garantiti, difficilmente si trova disponibilità in queste 2 nazioni. Quindi c'è anche una grossa crescita di domanda verso l'Italia, poiché in quelle destinazioni non si trova mai più posto. Mi permetto di dire che potremmo cogliere questa occasione per capire quanta possibilità c'è di fare business nel settore del turismo in coming italiano, perché c'è una forte, sempre più alta domanda, solo che dovremmo iniziare a pensare di sviluppare questo senso dell'ospitalità che è sempre stata una caratteristica del nostro paese e che purtroppo negli ultimi anni abbiamo perso. E sicuramente c'è molto lavoro da fare anche in questo, abbiamo forse approfittato per tanti anni della nostra così posizione privilegiata, ma nel frattempo gli altri si sono attrezzati, no? Hanno risposto magari con meno bellezza ma con più servizi. Ecco, più servizi, più aggressività, più concetto di marketing, più un concetto di vendere qualcosa. Siccome il patrimonio del mondo, diciamo così, il 50% è in Italia, noi abbiamo perso quella cultura anche del sapere proporre e vendere e ci facciamo comprare. E c'è una grande differenza quando qualcuno può scegliere piuttosto che non essere noi a proporre qualcosa. Presidente, la ringrazio molto. Allora, bocca al lupo per i prossimi mesi, sta già andando bene, speriamo che vada sempre meglio. Facciamo gli scongiuri sempre comunque ottimisti perché siamo imprenditori, però comunque cerchiamo anche la grazia del buon Dio. Buona Pasqua, buona molto serata. Gentile, risentirla, auguri. Paolo Corazzon, già in linea con noi, Trebi Meteo. Buonasera, buonasera. Buonasera, lei ha già prenotato oppure no? Io no, sono messa male. Io in realtà mi porto di sotto avanti i tetti per cercare anche i prezzi più bassi, quindi per l'estate sono già a posto. Che non bravo. Ho prenotato per Pasqua perché lavorerò a Pasqua. Quindi, ecco. Oh, ecco, bene, siamo pari. Ecco, va bene. Allora, tra l'altro, weekend di Pasqua che purtroppo, sotto alcuni punti di vista, vedrà il passaggio di qualche temporale, cioè dire che abbiamo tanto bisogno d'acqua e quindi ben venga anche qualche pioggia, certo non arrivasse nel weekend di Pasqua sarebbe meglio, però sono temporali di passaggio, quindi tranquillizzo tutti, in realtà sarà un weekend che vedrà anche ampio e di sereno. Andando con ordine, avremo un sabato con dei temporali che nel pomeriggio arriveranno al nord, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna e anche la riviera di Levante in Liguria, però in realtà già a fine giornata se ne vanno dal nord e quindi già domenica mattina al nord torna il sole, però domenica li ritroveremo nell'Italia centrale, ma più che altro sul versante adriatico, Marche, Abruzzo, Molise, e poi nel corso della giornata di Pasqua raggiungono anche il sud Italia, però ripeto, temporali di passaggio, non sto parlando di un'intera giornata. Male, sì. Esatto. E comunque a fine domenica se ne vanno definitivamente e quindi la Pasquetta avrà il sole da nord a sud, magari con temperature leggermente più basse perché questi temporali lasciano dietro di loro un po' d'aria più frizzantina, diciamo così, però sarà una Pasquetta davvero piacevole, quindi grigliate, gite fuori porta, tutto dovrebbe è essere tutto consentito, perfetto. Esatto. Grazie molte Paolo Corazzon, Trebi Meteo, lo seguite sempre su Radio 24 alle 21.56, ci salutiamo da Laura Bettini, grazie per essere stati con noi, un ringraziamento anche a Cristian Goldoni in assistenza e a Roberta Frisani in regia. Buon ascolto, buon proseguimento e buone feste.